Microsonic STC. Ha cambiato il sound, ha cambiato il groove, ha cambiato il loop, ma non ha cambiato il feeling, perché oggi continua a essere, sempre sarà, come sempre quando succede che arriva il quinto giorno della settimana, oggi è... Non so, però mi piaceva più quello vecchio. Tetterebe, però. Tapeperebe, non c'è, non è un vero venerdì. Se non c'è quello. Com'è? Allora fallo tu, va. Vai. Bravo, bravo, bravo. Continua così. Facciamo lo stremo delle forze. Quando comincio a vederti un po' più. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto dal Gamberetto e un saluto dal Drago. Il Gamberetto dell'aperitivo, anche lui ha la sua dignità. Ma insomma, sembrano tutti uguali, ma sai che ognuno, è la giornata del Gamberetto. Sai che ogni Gamberetto è diverso, che ogni Gamberetto ha un numero anche, cioè Dio ha creato tanti Gamberetti, lui sa tutti i Gamberetti. Sembrano che uguali, sì, esatto, ma in realtà li distingui dal filetto nero di me, che è quello che gli corre lungo la schiena. A seconda di quello che è vero, uno è diverso dall'altro a seconda del filetto. Va bene, allora passiamo all'argomento della giornata, è primavera, quindi pallidi, svogliati e inclini a lasciare il piatto quasi pieno sono i bimbi italiani inappetenti a primavera, secondo un'indagine. Sembrano le modelle che abitano al residence vicino qua allo studio. Come? Come? C'è un residence qui vicino con ma le modelle? Drago, ma non te ne sei mai accorto? No. Le modelle che abitano lì sono proprio così, no? Pallide, svogliate, inclini a lasciare il piatto quasi pieno. Perché uguali. Tu mangi con le modelle? Mangi no, con le vedo nella piadinaria all'ora di pranzo. Dove le vedi, scusa? Nella piadinaria qua dietro l'angolo. Scusa, perché piadinaria? C'è scritto piadinaria sull'insegna. Ma, piadinaria. Piadinaria, ma perché piadinaria? Perché la gestione in mano a due ragazze dell'est, Drago, che non parlano bene l'italiano. Sì, e allora ho capito, ma chi ha fatto la scritta sull'insegna poteva accorgersene. Piadinaria. Chi ha fatto la scritta sull'insegna legge solo ideogrammi. Capito? E quindi piadinaria uguale. Piadinalia uguale. Sì, per noi italiani, Drago, non c'è una sneana, no? Quindi piadinaria e piadineria uguale. Ma sì, è uguale. In fondo è come osso buco alla Calancascna. O voluto. Il caffè voluto. Ma vabbè, ma cosa, perché? Osso buco alla Calancascna. Quella ma cos'è? Roba lì, è finto italiano. Ma sono quelle vabbè, robe, ma siamo in Italia. Spaghetti bolognese. Quella roba lì. Siamo a Parigi. Comunque, Drago, le modelle pallide svogliate non hanno fame. Non hanno fame. Vanno nella piadinaria. Piadinaria. E ordinano un osso buco alla Calancascna. E poi vanno nel bagno a vomitare. Ah, capito. Vabbè, allegria. Ma non perché non è buono l'osso buco, per via del capito. Ho capito. Però fanno la loro bella figura, no? Beh, certo, le modelle. Quando non svengono. La modella, che lavoro è? Camminata veloce con faccia incazzata, camminata veloce con faccia depressa, camminata veloce con faccia distante, camminata distante con faccia distante, camminata veloce con faccia scocciata, camminata veloce con faccia malata, giravolta malata, destra, con faccia girata malata, sinistra, calavanta calata, quindi, fa l'avanta. Praticamente malata. Fare la modella è sapere se deve girare a destra o a sinistra, arrivato alla fine del suo destra o sinistra. Destra o sinistra. Il pensiero fisso mentre lavorano è adesso cosa faccio? Giro destra o sinistra? No, sinistra, destra, sinistra. Sinistra. This is the left channel. This is the right channel. Oh, ma cos'è che hai schiacciato? Oh, allora? Ma l'interruttore, io non l'ho capito, se deve stare sul verde o sul rosso? Sul verde, verde. Ah, ho capito, sul verde, va bene, così? This is the left channel. This is the right channel. The left. Quale? Quella là. Dove? A destra. La sua destra? No, alla sua destra. La mia? No, la mia è alla sua. La sua di chi? The right. Alla vostra destra, signore e signori, potete ammirare il settimo calorifero di re Ludovico IV. Oh! Chiedo asilo! Non è propriamente una modella, ma la Lourdes di Madonna, che evidentemente non è la Madonna di Lourdes, ma la figlia della pop star, sì, Madonna. Sì, bello. Bene, lei ormai fa una vita sempre sotto i riflettori. È nata nel 1996, quindi ha 15 anni, quasi 16, ed è griffata da capo a piedi fin dai tempi dell'asilo. Vabbè, ma è la figlia di Madonna, e quindi pretendi che abbia avuto una vita pretendi che abbia avuto una vita normale. Ma la novità è che questa minorenne adrenalinica dirige anche la nuova linea di make up Material Girl, in società con la mamma. Material Girl come la canzone. Certo. Che bello. Come regalo alla mamma ha chiesto un marchio di make up, evidentemente. Ma per Natale. Chissà come funziona quando i figli ti fanno certe richieste. Funziona, che arrivano così. Mamma, mi apri un marchio di make up. Sì. Vabbè, tu assumi una ventina di persone. Quindi una ventina di persone, grazie a Lourdes, ha trovato un lavoro. Far finta di produrre make up per far contenta la Lourdes di Madonna. Che non è la Madonna di Lourdes. Chiaro che no. Ma non capisco perché far finta. La linea esiste davvero. Sì, ma solo per la stampa, per internet. Poi se cerchi nei negozi ti ridono in faccia. Allora passiamo oltre. Ma secondo me ci denuncia. Ma chi? Lourdes? Tu dici che ci ascolta? Forse no, però. Vabbè, nel caso in cui ci ascoltasse, la salutiamo tantissimo. Sì, no? Certo, salutiamo. Ciao Lourdes. Wunderwaffe. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Wunderwaffe. Aber das stimmt nicht. Wir haben das frische Wunder. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Ein zarter Schokibund. Wunderwaffe, wunderwaffe. Aber Vorsicht! Wunderwaffe. Ist cool, Ben. Aber Vorsicht! Ist cool, Ben. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. E ora, bambini, ricreazione. Uè, ciao Joris. Ciao Albert. Allora, uè, devo farti vedere una cosa. C'ho il mio nuovo smartphone. Ma un altro telefonino. Bello. Uè, questo è grande, fa vedere. E fa di tutto, questo qui, Ma no. Tutto. Mamma mia, quanto è bello. E questo fa anche le basi, no? Fa le basi. Fa le basi, il groove, no? Bello. Fammi sentire una cosa. Allora, no, ti accetti. Allora, beh, già che ci siamo, lo testiamo. Io metto la base e tu fai freestyle. Quello no? Che mi hai dato l'ho consumato tutto, le basi. Fammi sentire qualcosa di nuovo. Allora, vado, no, le faccio instant, no? Vado. Le faccio così sul momento. Vai. Vai, senti, qui ti aspetto. Che? Venga, tu freestyle, no? Bello questo. Vado Albe! Ma no, devi freestylare, no? Senti qua! Alberto, siamo i due! Aspettiamo venerdì per andare a ballare! Alberto, siamo i due! È arrivato venerdì e andiamo a ballare! Ma da quando? Che cosa stai facendo? Tito! Iori, allora! Vuoi finire, no? Allora, che? Ma che stai parlando? Tito, lame! Voleva che ci lanciavo la pallina! Ma di... Vabbè, senti, lascia stare qui. Allora, mandiamo sta base. Mandiamo la base e tu freestyling. Dai, fai sentire un po'. Dai, vai. Vai. Vado. Bella. È venerdì. Stasera, per fortuna, non c'è la polizia. È venerdì. È finita la settimana, andiamo via. Alright, Albe, ti piace? Ma per adesso... No. Adesso no, c'è la roba della polizia poi. Sì, ma anche la base non è che è proprio bella. Che c'entra questa cosa? No, la base... la base c'è il touchpad del nuovo smartphone. Capito. E funziona tutto... No. Il freestyle che è questo qua. Vai, devi adattarti alla base, no? È venerdì. E questo l'abbiamo... Alright, madonna mia, è venerdì. Oh, ti piace o no? E magari un pensiero un po' più articolato. Sto già chill out. Qui siamo già al sabato. Cioè, Aia. Siamo già a domenica. Comunque, Kappa, hai visto? E il cuore, però, non lo so. Anche i bambini. Le vene scorre ancora il sangue del venerdì. Ma anche Joris Alberti gli hai messo in testa sta roba del venerdì. Venerdì. Sì, in testa e anche nelle vene. Nelle vene. Il problema è quando ti entra nelle vene. Il venerdì. Venerdì. Venerdì. Sì, va bene. Nelle vene del venerdì, quindi momento dei saluti. Grazie a tutti, grazie a Laura Faggin, grazie a Pietro Lacorte, grazie a Carmelo Lauricella. Senti come sei già più culcilato. Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Salvatore Iorio, Culandra, Chiara Mignini, Cappedrago. Mandate i video. Chiedo asilo è tra24.it. Call Andra.